Ci sono casi in cui uno psicologo deve per forza tagliarsi le vene. La psicologia Fordumi va incontro a fenomeni dove uno psicologo schizofrenico fa una terapia a un paziente sano, se esso riesce a vincere la sua resistenza mentale allora la terapia è giusta perché sulla strada abbiamo un altro pazzo in libertà. Uno dei capisaldi della psicologia Fordumi è proprio portare la pazzia nelle strade va e conquistare la terra con questa psicologia. Capitolo 490.875.340/bis/6.